Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I figli. Il loro vero bene deve prevalere su ogni altro, poiché sono i più deboli ed esposti. Non sono mai un diritto, poiché non sono cose da produrre. Hanno diritto ad ogni precedenza e rispetto, sicurezza e stabilità. Hanno bisogno di un microcosmo completo nei suoi elementi essenziali, dove respirare un preciso respiro. I bambini hanno diritto di crescere con un papà e una mamma. Così la pensa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il Cardinal Bagnasco, presidente dei Vescovi Italiani, che è tornato di nuovo sulla famiglia tradizionale, no alla stepchild adoption, a 3 giorni, ormai dovreste sapere, dal voto in Senato sul disegno di legge Cirinnà, quello sulle unioni civili. Ne parleremo in parte. In più chiedo piuttosto a voi anche di esprimere la vostra opinione. Lui dice la famiglia è antropologica, non ideologica, dice Bagnasco, e ribadisce appunto che i figli non sono un diritto. Cosa ne pensate anche voi? Avrete ormai una vostra idea, dicevo appunto, a 3 giorni da questo voto in Senato, che sarà appunto il 28 gennaio. Scrivete i vostri messaggi sempre attraverso gli sms al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte. Se siete qui sintonizzati alle 21.03 su Effetto Notte, siete nel posto giusto, all'ora giusta e nel momento giusto. Dopodiché un'altra cosa che vorrei sottoporvi, sempre per le vostre opinioni, i vostri messaggi, mi sembra un po' particolare, però è questa vicenda dell'Audi gialla, non so se la conoscete, un bolide di colore giallo, un Audi RS4 da 300 cavalli, motore Lamborghini, che viaggia a velocità folli spadroneggia nel nord-est d'Italia. È risultata rubata il 26 dicembre a Malpensa, a una targa del Canton Ticino. Sembra che sia occupata da tre uomini originari dell'est Europa, che avrebbero già effettuato alcune rapine in più località del nord-est, e risultano però imprendibili. La polizia dice: non ce la facciamo, vanno troppo veloci, fanno 260 all'ora. Vi pare possibile che dopo giorni, dal 26 dicembre, diciamo, una macchina che non è che passi del tutto inosservata, no? Un Audi gialla con motore Lamborghini. Com'è possibile, secondo voi, che ancora non siano riusciti a trovarli, a prenderli? 349-238-6666 per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte. Parleremo anche di Renzi, meglio, sta parlando lui a tutto tondo, anche a quinta colonna, dopo aver incontrato Rouhani, presidente iraniano che è in Italia, dopo aver scritto nella sua newsletter anche di molte cose relative all'Europa e a questo vertice che c'è per salvare Schengen, una 2 giorni ad Amsterdam. Anche questo, di questo parleremo, così come dell'allarme di Europol, secondo il quale questa agenzia della polizia europea, ci sono almeno 5.000 foreign fighters, questi combattenti che dalle varie nazioni aderiscono all'ISIS, che sono pronti a colpire in Europa, soprattutto in Francia. Non ci si annoia mai, sentirete anche che cosa è successo a Roma e forse ancora in corso. Roma infatti evacuata e poi tornata alla normalità la stazione Termini per la presenza di un uomo col fucile, ora ricercato dalle forze dell'ordine. Il vertice europeo per salvare Schengen, alcuni stati chiedono di estendere i controlli alle frontiere sino a 2 anni, Alfano dice per ora il trattato è salvo. Terrorismo, Europol lancia l'allarme, 5.000 terroristi pronti a colpire in Europa, i maggiori rischi in Francia, e oggi un marocchino è stato arrestato in Calabria. La visita di Rouhani a Roma, il presidente iraniano ha incontrato Mattarella, poi Renzi, il terrorismo, ha detto il leader iraniano, il primo problema, bisogna lavorare senza ambiguità, e sono stati firmati contratti miliardari. Economia, l'Unione Europea avvisa l'Italia, il debito rimane troppo alto, dal 2017 servono maggiori sforzi sul deficit. Unioni civili, il presidente della CEI Bagnasco difende la famiglia tradizionale, dice i figli non sono un diritto, e il PD cerca la mediazione sulle adozioni. L'allarme dei chirurghi italiani, con la spending review in sala operatoria i bisturi non tagliano più. Calcio, insulti a Mandzukic, per De Rossi non ci sarà la prova televisiva, l'episodio non rientra nella casistica di competenza della procura. E partiamo quindi da questa notizia di poco fa che arriva da Roma. La stazione Termini è stata evacuata in seguito alla presenza di un uomo armato con un fucile. Sul posto ci sono le forze dell'ordine che sono alla ricerca dell'uomo. Trenitalia ha disposto prima l'allontanamento di tutti i passeggeri anche dalla zona dei binari, poi è tutto più o meno tornato regolare. Ma ce lo racconta meglio il nostro Mauro Meazza del Sole 24 Ore, che casualmente si trovava lì alla stazione. Mauro, pronto? Sì. Sì, pronto, buonasera Roberto. Ciao Mauro. Mi senta? Sì, sì. Adesso la situazione è tornata normale, tanto che poi i treni hanno preso regolarmente il via dai marciapiedi, ma sono stati, diciamo, 20 minuti, mezz'ora abbastanza concitati. C'è stato prima un gran vociare, poi poliziotti, addetti alla sicurezza che correvano lungo i marciapiedi e invitavano tutti coloro che stavano sui marciapiedi a salire sopra i treni, non stare insomma in giro. E lì si è capito che si cercava questo uomo armato di fucile. Senti Mauro, comunque tu hai ti è capitato di hai parlato con qualcuno che l'ha visto personalmente? No, siamo riusciti soltanto a parlare rapidamente con la polizia, perché tutti quanti, me compreso, sono stati fatti salire, diciamo, in modo abbastanza brusco, rapido, sui treni. E i treni, poi il treno dove io sono stato fatto. E chiaramente sul treno Mauro Meazza, evidentemente il treno che è partito per fortuna, poi man mano lasciamo quindi Mauro Meazza al suo viaggio, è riuscito almeno a dirci subito l'essenziale di quello che è successo e che sta succedendo. Adesso appunto le forze dell'ordine dovrebbero continuare questa ricerca di questo uomo che è stato visto col fucile. Ci sono anche già foto che girano sui siti online, torneremo se ci sono degli aggiornamenti. Adesso parliamo invece del vertice europeo di Amsterdam per tentare di salvare il trattato di Schengen. Gli Stati europei hanno invitato la Commissione europea, al fine di questa prima giornata, a preparare le procedure per l'attivazione dell'articolo 26 nell'ambito del codice di Schengen, cioè l'articolo che prevede la possibilità di uno o più stati membri di estendere i controlli alle frontiere interne fino a 2 anni per far fronte a una situazione in cui, dicono, esistono deficit seri e ricorrenti nei controlli lungo le frontiere esterne e le misure previste da Schengen non risultano efficaci. Il ministro Alfano dice che in realtà il trattato per ora è salvo, bisognerà poi vedere, ma torneremo a parlarne qui nel corso di Effetto Notte tra poco. L'immigrazione che si mescola con il problema terrorismo. Oggi l'Europol ha detto che le milizie dello Stato Islamico starebbero organizzando degli attacchi su vasta scala in Europa, in particolare in Francia. A so-called Islamic State has a willingness and a capability to carry out further attacks in Europe. L'ISIS sta programmando attacchi su larga scala in Europa, sappiamo che ha la capacità di farlo. L'allarme è lanciato dal direttore di Europol, Rob Wainwright, in una conferenza stampa nell'ambito della riunione dei ministri dell'interno europei, ma è anche contenuto in un rapporto pubblicato dalla stessa agenzia all'indomani della diffusione del nuovo video contenente minacce contro Gran Bretagna e Francia. E c'è infatti proprio la Francia, secondo Europol, ancora nel mirino dell'ISIS. Europol analizza anche il profilo psicologico dei combattenti stranieri che dall'Europa e da altri continenti si affiliano allo Stato Islamico in Siria e in Iraq. Ben il 20% di loro ha avuto una diagnosi di problemi mentali prima di raggiungere l'ISIS. Intanto un autorevole giornale panarabo riferisce di documenti segreti su progetti di fusione in Libia tra quadri dell'ISIS e jihadisti libici filo Al-Qaeda. E in Gran Bretagna il Daily Mirror mette in guardia dai pericoli rappresentati dalle armi prodotte con stampanti in 3D che potrebbero essere usate dai terroristi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma l'Europa si sta davvero attrezzando per contrastare il terrorismo? Poi ne parliamo qui nel corso di Effetto Notte con un ospite, con un esperto. E proprio oggi la polizia italiana, su ordine della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha arrestato a Luzzi, in provincia di Cosenza, un marocchino di 25 anni sospettato di essere un affiliato terrorista. Nei video che guardava, uno soprattutto era il comandamento più ripetuto: dare morti agli occidentali infedeli. E Amil Mehdi, marocchino arrestato in Calabria, era pronto ad allacciarsi le cinture per raggiungere il paradiso, raccontava al telefono. Era pronto cioè ad immolarsi con attentati o azioni di guerra. Per questo aveva provato a trasferirsi da Luzzi nel Cosentino in Belgio. Per questo aveva tentato di andare in Siria attraverso la Turchia, ma una volta ad Istanbul, col suo tappetino di preghiera e materiale di propaganda per l'ISIS, è stato rimandato indietro perché pericoloso. Anche se lui nega ogni affiliazione, l'antiterrorismo ha trovato nella sua rubrica contatti con telefoni consultati pure dall'attentatore del treno Parigi-Amsterdam. Aveva legami anche col super ricercato delle stragi di Parigi, Salah, passato per Bari. Stiamo verificando, dice a Radio 24 il procuratore aggiunto di Catanzaro, Giovanni Bombardieri. Si stava autoaddestrando per finalità di terrorismo. Ci sono accertamenti sulla possibilità che ci possano essere stati altri passaggi, altre cose anche in quest'area. Se fosse condannato sarebbe espulso, come i 70 già allontanati dal dicembre 2014 su disposizione del Viminale. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso la visita di Rouhani a Roma, il presidente iraniano che è in Italia per 3 giorni, prima tappa del viaggio in Europa, questa in Italia, che lo vedrà successivamente in Francia. La visita giunge dopo la storica rimozione delle sanzioni internazionali contro l'Iran seguite alla firma nel luglio scorso, vi ricordate, a Vienna, del trattato per il controllo del programma nucleare di Teheran. Dopo il benvenuto da parte del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale, in serata l'incontro tra Rouhani e il Presidente del Consiglio Renzi, domani anche l'incontro con il Papa in Vaticano. Per combattere efficacemente il terrorismo internazionale, dice Rouhani, serve una grande coesione internazionale, tutti devono fare la loro parte fino in fondo, senza ambiguità, ha detto il presidente iraniano, e poi ha firmato con alcuni gruppi industriali dei contratti miliardari, quindi diciamo è anche un'intesa dal punto di vista economico. E poi c'è la polemica sulla visita di Rouhani da parte del caporabbino di Roma, Riccardo Di Segni, che ha detto: è intollerabile che mentre un intero apparato è impegnato a mantenere la memoria della Shoah, dopodomani è il giorno della memoria, questa viene fatta passare, dice, in seconda scena dalla celebrazione dei negazionisti, riferendosi al presidente iraniano. L'economia italiana. Per l'Italia la Commissione europea non vede complessivamente rischi significativi di tensioni sul bilancio entro un anno. Nel rapporto sulla sostenibilità di bilancio nell'Unione europea la Commissione scrive che il debito dell'Italia resta molto alto, costituendo la più importante fonte di vulnerabilità per l'economia italiana. Siamo alle unioni civili, a 3 giorni, vi dicevo, dall'approdo in Senato del disegno di legge Cirinnà, il presidente dei Vescovi italiani è tornato a ribadire la linea della Chiesa Cattolica, sottolineando che l'unica famiglia è quella tradizionale, formata da una donna e da un uomo, e che i figli non sono un diritto. I bambini hanno diritto di crescere con un papà e una mamma, la famiglia è un fatto antropologico, non ideologico. E ieri sul tema era intervenuta anche la presidente della Camera Boldrini. Io penso che nel momento in cui il partner muore e il figlio rimane solo, il partner abbia il dovere di occuparsi di questo figlio, il dovere. E allora mi sembra quasi naturale che questo dovere si traduca anche in un diritto, perché sarebbe, voglio dire, grave il contrario se il partner si disinteressasse di questo figlio e lo lasciasse al proprio destino. Allora, se è un dovere morale, perché non deve anche essere un diritto? Due posizioni a confronto, insomma. Voi come la pensate su questo argomento, dato che veramente restano ancora 2 giorni per il voto al Senato? Vi sarete fatti un'idea? 349-238-6666, il numero per gli sms, oppure sempre lì, la pagina Facebook di Effetto Notte. Parliamo anche delle primarie a Milano. Giuseppe Sala, candidato sindaco di Milano alle primarie del centro-sinistra, è stato intervistato oggi da Minolia Mix24. Sentiamo un passaggio. I miei avversari ne dicono di ogni colore in questo momento. Il punto è, credo di fare abbastanza paura, in particolare al centrodestra. Senta, ma quando Renzi ha ringraziato la Procura di Milano per la sua sensibilità istituzionale, perché l'ha fatto allora? Beh, bisognerebbe chiederlo a lui. Di certo noi non è che non siamo stati controllati dalla Procura di Milano, anzi, per cui direi che sono stati molto tempestivi. Berlusconi in realtà invece dice: Beppe Sala, un uomo di centrodestra, è nostro, altro che PD, me l'ha presentato Brunner Molli, è vero? A dire la verità, Brunner Molli ha segnalato il mio nome alla Moratti, ma non me l'ha certo presentato. Faceva selezione di classe dirigente Brunner Molli per il centrodestra, sicuramente. Sì. Insomma, la vogliono tutti, è bello però essere voluti da tutti, no? Ognuno gli vuol mettere la giacchetta. Ma no. Il mio sistema di relazione è sempre stato nella sinistra. Chiedete, che chiedano pure a Bersani cosa pensa di me, a Letta cosa pensa di me, assolutamente. Bersani, Letta, quindi tutto, maggioranza e minoranza del PD, tutto. Qual è l'avversario che teme di più? Maiorino è un politico, sa parlare alla gente... Bravo. Non ha paura però che senza un PD compatto alle spalle il rischio di fare la fine di Marino c'è? Guardi, oggi il PD compatto non ce la sta facendo purtroppo neanche Renzi, quindi lo sapevo e me ne faccio una ragione e vado avanti. Certo che ho buona parte del PD che è con me. Questo per le primarie di Milano. Invece parliamo di cronaca adesso, con questa Audi gialla, famigerata Audi gialla, che ha fatto la sua ricomparsa questa sera dopo 2 giorni di silenzio. È sfrecciata ad alta velocità per via Scavonia, la strada che collega la strada Terraglio di Treviso con Casale sul Sile, sempre provincia di Treviso, passando quando il semaforo era ancora rosso, poi scomparendo ancora una volta nel nulla. L'ultima confermata segnalazione della vettura ricercata risaliva all'altro ieri. Vi dicevo di questa macchina che evidentemente passa inosservata, un'Audi gialla e che sfreccia 260 all'ora nel nord-est con dentro tre uomini che proverrebbero dall'est Europa, da quanto si sa, e che continua dal 26 dicembre, che è stata rubata a Malpensa, a girare a folle velocità, a rapinare anche, sono macchiati di varie rapine, però evidentemente le forze dell'ordine non riescono a trovarli e a fermarli. E poi c'è l'allarme dei chirurghi italiani: con la spending review in sala operatoria, quindi con una campagna di risparmi, i bisturi non tagliano più. La ricerca di un prezzo sempre più basso ha ridotto in maniera drastica la qualità degli strumenti chirurgici, al punto tale che i bisturi in Italia non tagliano più. È un allarme che arriva dalla COI, l'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani, che ha ricevuto segnalazioni da migliaia di medici in tutta Italia. La mediocre qualità del bisturi utilizzate oggi ha conseguenze, dicono, sia estetiche, perché il taglio perde la famosa precisione chirurgica, sia infettive. Cultura con Pistoia, che sarà capitale italiana della cultura per il 2017. E poi in chiusura il calcio: insulti allo juventino Mandzukic per il romanista De Rossi, per questo non ci sarà la prova televisiva. L'episodio non rientra nella casistica di competenza della procura sportiva. Adesso una sentenza particolare della Cassazione si occupa anche di questo, naturalmente. Il nome di Buddha non può essere usato da nessuno in via esclusiva, come se si trattasse di un marchio in grado di denotare un prodotto o un servizio, come sostengono invece i francesi della società che gestisce il Buddha Bar, che molti di voi conosceranno, di Parigi, e che pubblica le famose compilation musicali Buddha Bar. Perché se così fosse consentito, cioè che diventasse un marchio esclusivo, si finirebbe per offendere il sentimento religioso dei buddisti, che vedrebbero la loro guida spirituale ridotta quindi al logo distintivo di un caffè-restaurant, per quanto dalla formula di indubbio successo. L'ha deciso quindi la Cassazione, dando il disco verde in Italia dei locali che a loro volta vogliono chiamarsi con questo nome Buddha, che appunto evocativo di successo. Io direi di interromperci brevemente per aggiornare chi sta viaggiando. Vedevo già i vostri messaggi sulla pagina Facebook e al 349-238-6666 a proposito di quello che dice il Cardinal Bagnasco a proposito di stepchild adoption e di famiglia tradizionale. Luca scrive: la famiglia è una forma sociale legata all'avvento dell'agricoltura, è un epifenomeno, il gruppo umano naturale, appunto il piccolo gruppo. In effetti i figli non sono un diritto, dice, ma neanche un dovere, come la Chiesa ci ha imposto per millenni. Pagina Facebook di Effetto Notte, oppure gli sms al 349-238-6666. Continuano i vostri messaggi mentre tra poco entreremo nel cuore degli argomenti con i vari ospiti. Scrive Mimmo da Francavilla al 349-238-6666. Buonasera, la Chiesa interferisce così pesantemente anche sulla politica di altri stati sovrani oppure un privilegio tutto italiano? Grazie, dice Mimmo. E poi pagina Facebook di Effetto Notte, leggerò poi i vostri messaggi. Invece adesso, se siete qui, siete qui per ascoltare le notizie più importanti della giornata. Trattato di Schengen verso una stretta sulle frontiere, controlli fino a 2 anni, così propongono alcuni stati europei in questo vertice di Amsterdam di oggi. E intanto c'è il pressing tedesco sulla Grecia, che dice: faccia la Grecia i compiti sui migranti. Unione Europea: l'Italia rischia uno shock per il debito pubblico troppo elevato, dice l'Unione Europea. Intanto le banche affondano la borsa, che chiude a meno 2%. Roma, paura alla stazione Termini per un uomo armato di fucile, è stato evacuato temporaneamente lo scalo, poi tutto è stata ripristinata la normalità, controlli a tappeto nel frattempo. Il presidente dei Vescovi Bagnasco dice: i figli non sono un diritto, devono avere una mamma e un papà. Intanto il PD cerca la mediazione sulle adozioni, sulla stepchild adoption. Allarme dell'Europol, l'agenzia della polizia europea: l'ISIS è pronta ad attacchi in larga scala, soprattutto in Francia. E poi il presidente iraniano Rouhani, che è a Roma per 3 giorni di visita, ha incontrato Mattarella, poi Renzi, domani incontrerà anche il Papa in Vaticano. Dice: bisogna rafforzare le relazioni e esplorare le varie opportunità. Spending review in sala operatoria: i bisturi non tagliano più, i chirurghi ospedalieri lamentano la qualità deteriorata per i bassi costi. Quindi questa, a parte una giornata piena di notizie, è stata anche una giornata intensa, più o meno come sempre, per il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, grande, iperattivo, ma soprattutto ipercomunicativo, perché oggi, a parte l'incontro con Rani, poi ha detto anche molto, ha dichiarato sull'Europa relativamente a questo vertice di 2 giorni ad Amsterdam, e poi sta parlando anche a Quinta Colonna con Paolo Del Debbio, intervistato da Paolo Del Debbio. Ne parliamo con Betta Fiorito. Betta, che ho visto che continua a muoversi ad ampio raggio, sulle unioni civili in particolare ha detto qualcosa? No, Una delusione in questo senso, ovviamente. Che ci si aspettava, visto? Con Del Debbio, sì, perché praticamente non ha parlato di unioni civili, ma ha parlato di famiglie povere. Ha detto che ci sono 700 milioni per le famiglie povere in Italia, ha poi detto che 50 milioni di italiani sono con lui su Schengen e soprattutto anche sulla diatriba che ha sull'Europa, con l'Europa. Ha detto che non si voterà fino al 2018 e però non ha parlato di unioni civili, che invece è stato l'argomento scottante oggi, Roberta. Con Bagnasco, abbiamo visto su tutte le prime pagine online almeno. Senti, visto che hai citato i suoi riferimenti all'Europa, sentiamo giusto un passaggio, siamo riusciti a prendere da Quinta Colonna. Io non sono solo, io sono con 60 milioni di italiani su questa cosa. A parte un centinaio di politici che pensano di fare di fare più bella figura attaccando il governo, io so che su questa cosa tutta l'Italia dice sì all'Europa, noi non siamo contro l'Europa, ma non ci stiamo a far la parte di quelli che devono sempre pagare e non riavere indietro ciò che giustamente stiamo chiedendo. Quindi, come dicevi tu, ritornato sull'Europa, su quella diatriba che è durata diversi giorni e probabilmente un po' in sottofondo c'è sempre, no? Io ho sbagliato, io ho detto 50 perché pensavo di levare i minori, lui ha detto proprio 60. Anche i nascituri, penso, anche i nascituri, sì, forse inclusa. Mi perdonino i radioascoltatori perché il problema di Schengen esiste, Roberta, ed esiste soprattutto per noi e per la Grecia. Che cosa succede? Da noi e in Grecia arrivano i clandestini, che poi sono molto spesso profughi, soprattutto dai paesi in guerra. Non sempre, alcune volte sono degli immigrati economici, come si dice, no? Economici, cosiddetti migranti economici, ma in questo momento sono più che altro persone che scappano dalla guerra, e bisogna anche capire le motivazioni che ci sono, no? Di queste persone. Se però si chiudono le frontiere, perché questi migranti vengono poi per andare nel nord Europa, dove ci sono più possibilità per lavoro, alcuni stazionano e rimangono da noi, altri, molti vanno via. Se si chiudono le frontiere, per l'Italia comincia a diventare un problema, e anche per la Grecia, perché non c'è in questi due paesi, l'Italia e la Grecia, la possibilità di dare lavoro a queste persone, come magari c'è invece nei paesi del nord Europa, che addirittura stanno cercando manodopera, come è successo per la Germania. Quindi quello che Renzi dice effettivamente è molto importante. In questo momento si gioca una battaglia sull'Europa, però noi abbiamo visto che il Premier nei giorni scorsi è stato molto duro riguardo anche ai conti pubblici, riguardo a questa legge di stabilità che deve passare il vaglio di Bruxelles. Oggi Paolo Mieli sul Corriere ha invitato praticamente a smussare i toni. Ecco, forse in vista di questo incontro anche con Angela Merkel, questo bilaterale, forse il Premier dovrebbe un attimo cercare di capire che cosa è meglio per l'Italia. Questo effettivamente, Betta Fiorito, comunque insomma, due giorni dal voto ha preferito su questa cosa glissare, evidentemente non vuole esporsi più di tanto, c'era già sulle appunto dominante. Unioni civili? Sì, c'era già dominante. Stiamo parlando delle unioni civili, l'unione civili lui ha dato libertà di coscienza. Sì, questo già due giorni scorsi. Personalmente Renzi ha detto di essere favorevole alla stepchild adoption, che è il nodo tra centrodestra e centrosinistra in questi giorni, e ha detto: io sono favorevole personalmente al fatto che il partner di una coppia omosessuale possa adottare il figlio naturale dell'altro compagno. E oggi la Chiesa è intervenuta anche molto a gamba tesa con Bagnasco. Questa cosa si aspettava. Perché? Perché nel weekend, sabato, la manifestazione invece Arcobaleno, quindi delle associazioni omosessuali, lesbiche, transessuali, bisessuali, insomma LGBT, è andata molto bene, e a questo punto era chiaro che la Chiesa avrebbe fatto una piccola controffensiva in vista del Family Day, che sarà il 30. Comunque aspettiamo, vediamo ancora domani, dopodomani, che cosa succede. Grazie intanto da Roma, Betta Fiorito. Ciao Betta. Sì. Grazie a voi. Ora invece ci spostiamo sull'ennesimo vertice europeo sull'immigrazione, questa volta il cuore di questo nuovo incontro, come vi dicevo anche dai titoli, dei 28 ministri degli interni europei che si sono riuniti ad Amsterdam, è il trattato di Schengen, cioè quello della libera circolazione delle persone attraverso i vari stati dell'Unione Europea. Questo di fronte a questa pressione forte dei flussi migratori. Gli stati hanno invitato la Commissione Europea a preparare le procedure per l'attivazione dell'articolo 26 nell'ambito del codice Schengen. Allora chiedo a Beda Romano, in diretta da Amsterdam, Beda Romano del Sole 24 Ore. Ciao Beda. Sì, buongiorno. Beda, allora, da una parte c'è Alfano che dice il trattato è salvo, dall'altra parte però ci sono la conclusione, almeno per il momento, che ha dato il ministro olandese della sicurezza, è che questi stati, diversi stati, hanno chiesto che si possa estendere la sospensione di Schengen anche per 2 anni. Quindi, alla fine, in questa giornata, che cosa si è deciso? Ma credo che si sia deciso che, salvo cambiamenti di scenario nei prossimi 3-4 mesi, in altre parole con un calo sensibile dell'arrivo dei rifugiati dal vicino Oriente in Europa, ci sarà un prolungamento dei controlli alla frontiera in alcuni paesi membri, perché il trattato prevede che i paesi possano introdurre dei controlli alle frontiere interne, ma per un massimo di 6 mesi. Questi 6 mesi cominceranno a scadere in maggio per alcuni di questi stati membri e siccome la situazione sul fronte dei rifugiati continua ad essere molto molto difficile, alcuni paesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta per consentire loro di prolungare oltre i 6 mesi questi controlli. Allora il segnale evidentemente non è buono, perché si sperava che questi controlli fossero veramente temporanei e potessero durare qualche settimana. In realtà stanno durando sempre di più e c'è il timore che la situazione non cambi e quindi i paesi coinvolti continuino i controlli alle loro frontiere interne. Questi paesi sono la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia, quindi tutti i paesi fondamentalmente del nord dell'Europa. Il rischio evidentemente è che altri paesi possano fare la stessa cosa. Sentiamo che cosa ha detto Alfano a proposito del fatto che secondo lui per il momento Schengen è abbastanza salvo. Noi abbiamo una posizione molto chiara su Schengen. Bisogna rafforzare i controlli e rendere veramente sicuri i controlli alla frontiera esterna dell'Unione Europea. Facendo questo salveremo il diritto di circolazione libera all'interno, che sarà appunto una circolazione non solo libera ma anche sicura. Così detto Alfano, è anche aggiunto che bisogna rivedere però Dublino, sentiamolo. Noi vogliamo rivedere Dublino, perché Dublino è una foto ingiallita di un'Europa e di una gestione delle migrazioni di un continente che non esiste più, perché non c'è più quella modalità di migrazione di 20 anni fa. E allora bisogna rivedere Dublino, stabilire un meccanismo di redistribuzione automatico, per cui una volta che i migranti entrano in un paese europeo, in qualunque paese entrino, devono essere redistribuiti secondo quote obbligatorie e al tempo stesso attivare un efficace meccanismo di rimpatri degli irregolari. Quindi Alfano ha insistito ancora una volta, Beda Romano, sulla ricollocazione, sul ricollocamento, che però al momento non avviene in modo efficace. Ecco, poi il chiudersi tra l'altro di vari stati, come anche dicevi tu, e però ammette che qualcosa va superato, come anche il trattato di Dublino, no Beda? Beh sì, il principio di Dublino è un principio degli anni 90, poi rivisto in altre circostanze, e prevede che il richiedente l'asilo debba richiedere l'asilo nel paese di primo sbarco, di primo arrivo. Che è un problema per l'Italia, ovviamente, o per la Grecia, no, in particolare, perché rischiano di sovraccaricarsi. Sì, assolutamente, è un problema per tutti quei paesi che sono alla frontiera con il Medio Oriente o con le grandi regioni del mondo che in questo momento hanno un deflusso di rifugiati, di profughi. Allora l'idea è di cambiare questo principio. La Commissione dovrebbe presentare tra qui e marzo una proposta, ed è una proposta che presumibilmente si baserà sul fatto che c'è bisogno di una distribuzione o redistribuzione dei profughi arrivati in Europa, una redistribuzione su tutto il territorio europeo. Il problema evidentemente è che quest'idea è già stata presentata e approvata dagli Stati membri negli scorsi mesi e prevede un ricollocamento di circa 160.000 persone arrivate in Italia e in Grecia. Questo ricollocamento non sta avendo luogo, è molto lento e pur essendo stato approvato dagli Stati membri non viene applicato. Grazie Beda Romano da Amsterdam. Ciao Beda, buona continuazione. Ciao. Prima di lasciarci questa breve ricreazione, ancora i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia con gli sms al 349-238-6666 sulle parole del Cardinal Bagnasco, che di nuovo ha ribadito la linea della Chiesa Cattolica rispetto alle unioni civili. Sapete che il disegno di legge Cirinna approderà al Senato il 28 gennaio, quindi tra tre giorni. Ha detto: il matrimonio è solo quello tra una donna e un uomo, bisogna difendere la famiglia tradizionale, no alla stepchild adoption, i figli non sono un diritto. Continuano i vostri messaggi, mettete anche quando una firma qualsiasi, dice questo ascoltatore o ascoltatrice, non perché lo dice il Cardinal Bagnasco, ma i bimbi devono avere papà e mamma, poi se gli adulti vogliono fare coppia omosessuale liberi di farlo, ma nella loro scelta non devono coinvolgere i bambini. E poi Giacomo da Parma: chiunque nasce dall'unione tra un uomo e una donna, perché privare un bambino di una di queste due figure per egoismo? Poi ancora qualcuno scrive: la cosa più folle è che si trovi singolare ciò che è naturale. Ancora un altro messaggio sull'Audi gialla: non posso credere che stiate cavalcando una tale non notizia come l'Audi gialla sarà già stata fatta a pezzi da mesi. No, l'Audi gialla intanto non si cavalca, semplicemente non ho dato notizia e continua a scorrazzare liberamente nel nord-est a folle velocità senza che si riesca a fermarla. E poi qualcuno scrive: il Cardinal Bagnasco mi sembra il vecchio pinguino cattivo ed arcaico del film Happy Feet che ha paura del diverso. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco parliamo di questo allarme dell'Europol del terrorismo dell'ISIS che potrebbe colpire in Europa. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al momento giusto nel posto giusto con Roberta Giordano, che continua naturalmente a essere con voi. Vi aggiorno tra l'altro sull'uomo armato in stazione Termini che ha creato un blocco dei treni per circa un quarto d'ora anche della metropolitana. Parrebbe questo l'aggiornamento, che si tratta di un uomo, un italiano, che in realtà avrebbe avuto un fucile giocattolo e pare si tratti di uno squilibrato. Ci mancano anche gli squilibrati con il fucile giocattolo, ma di squilibrati ce ne sono molti, anche naturalmente inevitabilmente, come si può immaginare, nelle file dell'ISIS. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto volevo anche leggere qualcun altro dei vostri messaggi che stanno arrivando tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666 sulle parole di Bagnasco a tre giorni dal voto sulle unioni civili, che dice la famiglia deve essere solo quella tradizionale e no alla stepchild adoption perché i figli non sono un diritto. Alberto dice: penso che volessi sposare di questi tempi tra etero e homo e andarsi a cercare guai col lanternino. E vabbè, qui siamo sullo spiritoso. Massimo: questa legge non prevede l'adozione se non per i figli del coniuge, per cui di cosa si sta parlando? Cristiano scrive: è vero che i figli non sono un diritto, ma è altrettanto vero che le sfere degli incontri, delle realtà affettive stanno ridisegnando nuovi profili nel terreno umano. E poi invece dice Davide da Genova: sono completamente in accordo con Bagnasco, la normalità è questa, poi sicuramente ci sono i problemi e vanno affrontati, il bambino non può decidere, ha bisogno di serenità donata da mamma e papà. Qualcun altro che fresco scrive: ma quell'Audi gialla RS4 non ha un navigatore satellitare al quale si può risalire e quindi rintracciarla? Pensi, ascoltatrice e ascoltatore, che non avrebbero già fatto da un pezzo le forze dell'ordine? Tra l'altro sono amareggiatissime, perché leggevo per esempio che il segretario di polizia COISP Franco Maccari, quindi questo sindacato di polizia, dice: questa vicenda dell'ormai famigerata Audi gialla in fuga nel nord-est dell'Italia è la rappresentazione vivida e concreta, dice, di una realtà durissima che vede le istituzioni della società civile perdere quella sfida vinta invece da chi, nonostante tutti i nostri sforzi, continua a farsi beffe di noi e dei nostri limiti nell'assoluta consapevolezza di non stare rischiando neppure molto, perché nella peggiore delle ipotesi cosa potrebbe capitare a questi tre? Adesso tra poco entreremo nel cuore di un altro argomento, parleremo appunto di terrorismo e dei rischi per l'Europa, ma vi voglio ricordare le notizie più importanti. Roma evacuata e poi tornata alla normalità alla stazione Termini per la presenza di un uomo col fucile che sarebbe stato rintracciato. È un italiano e il fucile probabilmente è un fucile giocattolo. Il vertice europeo per salvare Schengen: alcuni stati chiedono di estendere i controlli alle frontiere sino a 2 anni. Alfano dice: per ora il trattato è salvo. Terrorismo: Europol lancia l'allarme, 5.000 terroristi pronti a colpire in Europa, soprattutto in Francia. Ne parleremo a momenti. La visita di Rouhani a Roma: il presidente iraniano ha incontrato Mattarella, poi Renzi. Il terrorismo, ha detto il leader iraniano, è il primo problema, bisogna lavorare senza ambiguità Unita. Intanto sono stati firmati contratti miliardari con gruppi industriali. Economia: l'Unione Europea avvisa l'Italia, il debito rimane troppo alto dal 2017, servono maggiori sforzi sul deficit. Unioni civili: il presidente della CEI Bagnasco difende la famiglia tradizionale, dice i figli non sono un diritto, il PD cerca la mediazione sulle adozioni. E a margine del vertice europeo di Schengen, di cui abbiamo parlato poco fa con Beda Romano da Amsterdam, è stato presentato anche il rapporto di Europol, cioè l'agenzia della polizia europea, che ha lanciato un allarme. Ci sono 5.000 foreign fighters, cioè combattenti stranieri, al servizio dell'ISIS che minacciano l'Europa. Stanno preparando nuovi attacchi terroristici da attuare nell'Unione Europea e in particolare in Francia. Il documento rivela, questo rapporto di Europol, che gli attacchi saranno anzitutto diretti a obiettivi ordinari per sfruttare l'impatto che questo genera. Dice ormai questo rapporto, la strategia dell'ISIS sta diventando globale e parla di brutta gente, perché dice almeno uno su cinque di questi foreign fighters è stato diagnosticata una malattia mentale, dei 3.000 circa che sono stati almeno schedati, che sono in un database. Non avevamo molti dubbi, ecco, sulla malattia mentale, a parte, diciamo, una visione distorta del senso di essere umani, anche del senso di essere uomini soprattutto. Arturo Varvelli, responsabile dell'osservatorio del terrorismo dell'ISPI, esperto anche di Libia, di terrorismo in genere. Arturo, buonasera. Buonasera a voi. Quello che ci si chiede, adesso farò sentire un passaggio di Alfano sul fatto che non esiste una specifica preoccupazione per l'Italia, poi però ci dirà se effettivamente l'Europa è attrezzata, si sta attrezzando per contrastare questa offensiva dell'ISIS. Sentiamo Alfano. Noi siamo un paese in cui la prevenzione ha funzionato fin qui, ma non c'è una minaccia specifica e concreta. Intanto il lavoro di prevenzione funziona, tant'è che questa mattina abbiamo arrestato un marocchino 24enne grazie a una norma del nostro decreto antiterrorismo. E infatti oggi è stato arrestato questo marocchino a Cosenza, sospettato di essere affiliato dell'ISIS. Però Arturo Varvelli, l'Europa sta provando a reagire, effettivamente si è creato questo coordinamento internazionale di scambio di informazioni tra i vari stati? Beh, si sta creando, come sempre, diciamo, l'Europa più che agire preventivamente agisce per reazione, lo vediamo, è sempre la storia dell'Europa questa, no? Si forma un problema e si cerca di risolverlo, e anche questo è un impulso, anche la questione terroristica sta dando un impulso in questa direzione. Siamo alle fasi preliminari di un coordinamento vero e proprio, diciamo, e soprattutto su una materia così delicata come quella che riguarda naturalmente la condivisione di informazioni che riguardano l'interesse nazionale e la sicurezza nazionale, gli stati sono storicamente anche qua sempre, come dire, poco propensi a condividere queste informazioni, perché sono naturalmente dati sensibili e le varie intelligence sono estremamente gelose, rispondendo ai governi nazionali e facendo gli interessi nazionali degli singoli stati-nazione. È una storia di rivalità reciproca anche nei confronti degli altri paesi europei in questo settore, mentre c'è stata sempre una condivisione di qualche tipo delle politiche interne. Abbiamo visto qual è stato il grado di integrazione in questi settori, abbiamo visto quanto è faticoso condividere le politiche estere. Siamo ancora nelle fasi piuttosto preliminari, nonostante esista un alto rappresentante, esista un coordinamento ormai avviato da diversi decenni. Possiamo intuire che grado di profondità in realtà possa avere un coordinamento dell'intelligence. Certamente è necessario però che almeno vi sia una sorta di database di notizie sullo spostamento di alcuni di questi terroristi o presunti tale, che permetta un maggior coordinamento, almeno un monitoraggio costante e uno scambio di notizie costanti all'interno dell'area europea. Questo è fondamentale, perché abbiamo visto anche che gli attentatori di Parigi erano solamente in parte parigini, ma in buona parte provenivano ad esempio da Bruxelles, è una storia piuttosto nota, e questo ha fatto sì che non ci fosse un coordinamento tra le due intelligence e che fosse permesso a questi soggetti di compiere attentati che non sono sofisticati, ma che certamente possono lasciare degli indizi dietro di sé anche preventivamente. C'è un ascoltatore che chiede, non crede che se ci fosse un pericolo reale di attentati indagherebbero in segreto? L'impatto è creato da chi annuncia generando ansia. Beh, è chiaro che poi i vari stati indagano in segreto, però come si diceva con Arturo Varvelli, bisogna che decolli questo coordinamento internazionale, altrimenti ognuno nel proprio orticello indaga da sé e poi così si è visto anche come con gli attentatori di Parigi, come sono passati liberamente anche dopo da uno stato all'altro, no? Certamente, ma l'ISIS, lo Stato Islamico, tutte le organizzazioni terroristiche sono consapevoli delle debolezze del nostro sistema. Come dire, prima di compiere un attentato, o se lo compiono in una determinata maniera, o se usano alcuni canali anziché altri, lo fanno sfruttando, insinuandosi nelle nostre debolezze. Quindi in realtà noi dovremmo colmare queste debolezze, che non vuol dire, come dire, militarizzare un intero continente, ma vuol dire essere un po' più provveduti e essere meglio attrezzati dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista dell'intelligence e della sicurezza. Grazie Arturo Varvelli. Grazie a voi. Buona continuazione. Intanto accolgo le scuse dell'ascoltatore con un sorriso e poi sempre sulle parole di Bagnasco, Stefano scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: i figli non sono un diritto né tantomeno il matrimonio, la società evolve non cancellando il significato delle parole del nostro vocabolario, al massimo aggiungendone. Poi un altro messaggio di Doris da Trieste: Bagnasco e la Chiesa smettano di predicare sempre alla vigilia dei voti o delle elezioni, basta con la loro ingerenza, Italia laica, svegliati. 349-238-6666 per continuare con i vostri messaggi, oppure c'è la pagina Facebook del programma. Tra poco. Scrive un ascoltatore: vogliamo risolvere il problema del terrorismo islamico di matrice islamica di cui abbiamo appena parlato, dice, affrontiamo il problema da dove è partito. I paesi di tutto il mondo, se vogliono liberarsi del problema del terrorismo di questa matrice, credo dovrebbero affrontare seriamente il problema israeliano-palestinese o non se ne esce. Certo, è una mia opinione. Certo, è una tua opinione. Veziuggio si chiama sulla pagina Facebook di Effetto Note. Sicuramente quello, il problema israeliano-palestinese è un problema annosissimo da risolvere da tempo, ma evidentemente non credo che dipenda tutto da lì comunque. E poi invece sempre sulle parole di Bagnasco scrive un ascoltatore o ascoltatrice al 349-238-6666 favorevole a tutto, compresa stepchild adoption, e comunque la famiglia è un fatto sociale. Vi ricordo le notizie principali brevemente, che sono appunto questa vertice europeo di Schengen, l'ennesimo di Amsterdam, scusate, per cercare di salvare il trattato di Schengen, quello della libera circolazione delle persone negli stati membri, però si va verso una stretta delle frontiere con la Germania che fa pressing sulla Grecia e dice faccia i compiti sui migranti. E poi l'Unione Europea che avverte l'Italia che rischia uno shock per il debito pubblico troppo elevato. E Roma paura la stazione Termini per un uomo armato di fucile, è stata evacuata la stazione, poi sono stati ripristinati i treni e anche la metropolitana. Parrebbe che questo uomo sia un italiano squilibrato con un fucile giocattolo. Il presidente dei Vescovi Italiani Bagnasco, che a 3 giorni dal voto sulle unioni civili, dice i figli non sono un diritto, devono avere una mamma o un papà, la famiglia è solo quella tradizionale tra una donna e un uomo. E vedevo tra l'altro che si è conclusa la bicamerellina del PD, sta cercando una mediazione sul disegno di legge Cirinnà. E poi l'allarme Europol, l'ISIS pronta ad attacchi in larga scala in Europa, soprattutto in Francia, ne abbiamo appena parlato, e il presidente iraniano Rouhani, che è a Roma per una 3 giorni per rafforzare le relazioni con l'Italia, ha visto Mattarella, poi Renzi e domani anche il Papa. E adesso parliamo dell'appuntamento di EU-Zone, sì, sarebbe EU, Europa, Zone, la zona, il rapporto di voi, EU-Zone, con l'Europa, perché vuole essere questo un punto di incontro tra gli ascoltatori e gli europarlamentari per capire chi sono, come lavorano. Sul sito di Radio 24 ci sono poi tutti i contatti elettronici se volete per scrivere e conoscere meglio l'attività degli europarlamentari. EU-Zone, incontro con gli europarlamentari. Nome: Daniele. Cognome: Viotti. Età: 41. Nato a Alessandria. Eletto in circoscrizione nord-ovest. Con quanti voti? Poco più di 28.000. Partito politico: Partito Democratico. Gruppo politico: Socialisti Democratici Europei. Segni particolari: Ho gli occhiali rossi e la barba. Quante lingue parla? 2, e capisco abbastanza il francese. Competenze europee in 10 parole: bilancio, diritti civili, un po' di riforme. Sono meno di 10 parole, però sono 3 argomenti molto grandi. Dal Corriere della Sera: il pericolo che corre l'Italia, migranti bloccati da noi senza varchi verso l'Europa. È vero, l'Europa non sta dando le risposte che aveva promesso, soprattutto sul ricollocamento. L'Italia sta facendo il possibile, la situazione non è tollerabile, soprattutto non è tollerabile che vengano fatti richiami solo l'Italia non ha i paesi che non accolgono i richiedenti asilo. Dall'Espresso. Juncker porta l'Europa su un binario morto. È un titolo molto negativo. Noi abbiamo bisogno che Juncker invece faccia un buon lavoro. Ha perso un po' di smalto rispetto all'inizio. Qual è il suo modo di vedere l'Europa? Soprattutto quella dei giovani, dei ragazzi che girano, che si confrontano, che parlano le lingue. Dobbiamo lavorare per loro noi. Quello che stiamo facendo non è per noi, ma per le generazioni più giovani. L'Europa con o senza identità? Deve darsela ancora. È un progresso. Unioni civili. In Italia il clima è caldo e in Europa? In Europa il clima è freddo perché praticamente tutti i paesi europei hanno già affrontato e risolto la questione. Quali sono i paesi più progressisti? E chi lo sa? Regno Unito del conservatore Cameron che approva il matrimonio ugualitario o l'Italia del leader socialista Renzi che non riesce a fare una legge sul matrimonio ugualitario? Tra i dossier più complessi, quello delle frontiere interne. Che prospettive? Va risolto nel tempo più rapido possibile. Non ci sono prospettive diverse se non il mantenimento di Schengen esattamente così com'è. Polizia europea per la protezione dei confini esterni, sì o no? Sì, in un'ottica di riforma del sistema di difesa europeo. La prima cosa che ha pensato quando è stato eletto? Beh, insomma, la felicità, il sogno anche di mio padre che mi ha sempre spinto a fare politica per la passione che aveva anche lui. 30 secondi per sintetizzare la sua missione politica. Dare un contributo perché ci sia molta più Europa in tutti i paesi e non perché ce ne sia di meno. Combattere le idee come quelle di Cameron che vogliono meno Europa, noi dobbiamo portarne molto di più. Il mio contributo sarà in questo senso. Il bilancio ad oggi, positivo o negativo? È abbastanza positivo per il lavoro fatto dall'Italia, però i traguardi sono ancora molto lontani. I colleghi con i quali ha legato di più? Tanti, anche stranieri, quelli della mia commissione. L'ultimo libro che ha letto? Sto leggendo in inglese il dottor Chivago. Un suo pregio e un suo difetto? Un pregio che ho conquistato col tempo è quello di mordermi la lingua prima di rispondere, di parlare o contare fino a 10, diciamo. Un difetto è che spesso non mi riesce di arrivare al 10. YouZone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effettonote al 349-238-6666 su vari argomenti, ma in particolare sulle parole del Cardinal Bagnasco. Però qui abbiamo cardinale, diciamo, del calcio. Brava, dello sport, mi piace questa definizione, questa papalina, anche perché ogni tanto, brava, perché per il sempre troppo sempre troppo di corsa. Invece oggi proprio ci possiamo rilassare. Guarda, adesso mi distendo qui sulla sedia, sdraio con caffè, un bel cocktail. Il caffè la sera no, però ecco, bravo, non cocktail. Mi piace neanche, mi piace il tè. Senti, invece questo De Rossi, abbiamo parlato di insulti tanto tutta la fine della scorsa settimana con Sarri e Mancini, adesso invece De Rossi. Sì, capitano De Rossi. Della Roma, ma non era meglio Totti come capitano? Totti adesso sta in panchina, no? Stava in tribuna, cioè stava in panchina Totti, e quindi il capitano era lui, è ragionevole che sia uno in campo, no? Che ha detto De Rossi in campo? Lo devo dire? Dillo. Ha detto zitto tu, zingaro DM, perché sennò a chi l'ha detto? L'ha detto a Mandžukić, il centravanti della Juventus, ieri nella partita vinta dai bianconeri sulla Roma per 1-0. De Rossi ha commesso anche un fallo in quell'occasione, è stato ammonito e l'ingiuria è stata ben visibile dal labiale tramite la TV. Però questa casistica non rientra in quella sanzionabile con la prova TV per quanto riguarda proprio effettivamente il regolamento, perché la prova TV sanziona bestemmie o episodi violenti che abbiano in qualche modo influenzato il risultato. In questo caso, quindi, questa ingiuria non rientra in questa casistica e quindi non è sanzionabile tramite la prova TV. Quindi De Rossi non è stato sanzionato, sì, anche se esiste la possibilità, in vero in realtà al momento mi sembra remota, che il procuratore federale Palazzi apra di propria sponte un'inchiesta sull'accaduto. Diciamo che previsioni credo che De Rossi potrebbe seguire il consiglio arrivatogli oggi indirettamente da Buffon, che tra l'altro è anche il suo capitano in nazionale. Ha detto, dice, quando ci beccano a dire queste cose è bene chiedere poi scusa in modo tale che l'episodio così ha fatto, secondo te, De Rossi? Non ancora, ci sta pensando, ma come si dice, la notte porta consiglio, magari domattina, insomma, anche perché alla Roma hanno sospeso pure il giorno di riposo, vista che la situazione certo non florida sul campo, quindi insomma sarà anche molto preso dagli allenamenti per recuperare una stagione che ha preso tutt'altro indirizzo rispetto al previsto. Diciamo che si potrebbero evitare certe espressioni, poi soprattutto legate a certe sì, categorie, si sa, sicuramente, no? Eccetera. È vero pure che chiaramente questi personaggi vivono con le telecamere sempre... che non giustifica, che comunque non giustifica, però almeno no, chiedere però scusa. Magari se te lo mettono pure a te una telecamera, no, tipo Grande no, Fratello, Dio, anche te cose, dici no, la parolina. Non le dico, posso dire sì, cretino, posso dire ah, stupido, detto posso cretino, dire cretino, sanzionato. Sì, che l'ho detto a dobbiamo te. Una no, registrazione, allora... Paolo Corleoni, denunciamo la procura. Cancelliamo anche Dario Ricci, che lo dobbiamo salutare, noi ci vediamo alle 22, ciao Dario.